Quante cose da dirti nei giorni più tristi, ti rivedrò senza più la tua voce distrutta. Se la fine è l'inizio, vedrai prima o poi mi convincerò che alla fine è la cosa più giusta. Mi sto dando la colpa, però vorrei dare la colpa all'età. Ricamavo la tua libertà che citavi Montale, ma ti immagino lasciarti andare sopra i letti delle altre persone. Impazzisco perché vorrei avere come te la forza di dimenticare, ma lasciami da sola, da sola. Ma in fondo sai che vorrei soltanto che tu fossi qui anche se ti ho lasciato sola in strada e non sento più me. Non è perché sei degli altri e che non sei più in me, e forse è la scelta appropriata, ma perché ancora mi fa così male ora che sei di tutti, di tutti, di tutti tranne me. Di tutti, di tutti, di tutti tranne me. Ti ho scritto tutto su un foglio che si è distrutto con la pioggia, con il pensiero che ti spoglio, ma solo per metà. E non ci sentiamo da un po', vorrei dare la colpa all'età. Tu pretendi la tua libertà, io non trovo la pace. Ti immaginerò camminare sulle labbra delle altre persone, e mi illuderò ancora di avere come te la forza di ricominciare. Ma in fondo sai che vorrei soltanto che tu fossi qui anche se ti ho lasciato sola in strada e non sento più me. Non è perché sei degli altri e che non sei più in me, e forse è la scelta appropriata, ma perché ancora mi fa così male ora che sei di tutti, di tutti, di tutti tranne me. Oh, di tutti, di tutti tranne me. Tchau.